la Bibbia, bisogna essere non? Lui deve creare il marco della lotta della donna, una fiera di una Europa. Ma خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.